ben trovate all'ascolto. Questa è sempre Radio Onda Rossa, il martedì autogestito da femministe e lesbiche. Vi proponiamo in questa trasmissione la seconda parte dell'intervista realizzata ormai una quindicina di giorni fa con Pinar Selek, qui che è venuta qui a Roma. Pinar Selek è una femminista, antimilitarista, sociologa, una militante infaticabile. Pinar Selek è stata costretta ad abbandonare la Turchia nel 2009. Militante del collettivo femminista Amargi, andiamo a leggere appunto brevemente una presentazione che di lei hanno fatto le compagne del collettivo di solidarietà con Pinar Selek in Francia, traduzione, poi ne parleremo, che prendiamo dal libro, dal saggio Lontano da casa, ma quanto, un saggio di Pinar Selek che è stato tradotto anche in italiano grazie al collettivo di solidarietà con Pinar Selek in Italia. E appunto dicevamo, Pinar Selek, un'acrobata che costruisce ponti tra lotte diverse, costretta ad abbandonare la Turchia nel 2009, oggi si è stabilita a Strasburgo dopo 2 anni passati in Germania. Nonostante le difficoltà dell'esilio, continua a lavorare e a viaggiare, condividendo le sue lotte e tessendo legami tra tutte le realtà che attraversa. È ancora nel comitato redazionale della rivista femminista Amargi e utilizza l'esperienza dell'esilio forzato e i suoi numerosi viaggi per arricchire il dibattito femminista sia in Turchia che negli altri paesi che attraversa. È una femminista ancora quindi molto attiva e che ha prodotto anche tanti studi molto interessanti. Nel 98 viene arrestata dalla polizia, lei stava conducendo delle ricerche sul movimento curdo, era appena tornata da Parigi dove aveva intervistato dei militanti in esilio e è stata appunto arrestata, torturata dalla polizia che ovviamente voleva strappare, insomma, a Pinar i nomi delle persone che ha incontrato. Lei si è rifiutata di parlare, ha resistito e quindi è stata incarcerata. In carcere le hanno comunicato che è accusata di aver messo la bomba che il 9 luglio del 98 ha causato 7 morti e più di 100 feriti al mercato delle spezie di Istanbul. Le perizie tecniche hanno dimostrato che non si è trattato di una bomba ma dell'esplosione accidentale di una bombola di gas. Tuttavia questo è l'inizio di un accanimento politico giudiziario che dura ormai da tantissimi anni, appunto dal 98. Pinar, diciamo, ha subito vari gradi di processo, le accuse sono cadute una dopo l'altra. Dopo 2 anni e mezzo di prigione, nel dicembre del 2000 Pinar Selek viene rilasciata e in seguito prosciolta nel 2006, ma l'incubo non finisce qui. La Corte di Cassazione turca decide di fare appello contro i verdetti di innocenza, verdetti che appunto si sono susseguiti nel 2007-2009 e infine nel 2011. Ancora oggi però Pinar Selek rischia una condanna all'ergastolo, vittima di un processo senza fine che è in sé una forma di tortura, ovviamente. Noi lo ricordiamo che il 22 novembre prossimo ci sarà la prossima udienza e sicuramente vi aggiorneremo sugli sviluppi, insomma, di questo, di questa vicenda, di questo accanimento. Nella prima parte dell'intervista che abbiamo realizzato con lei, che trovate sul nostro blog mfla.noblogs.org, nella prima parte con Pinar abbiamo parlato del suo percorso come femminista, della militanza nel collettivo Amargi, collettivo di donne turche e curde, e abbiamo parlato anche dei suoi lavori, delle sue analisi del militarismo come appunto anche come passato passaggio forzato nella società turca per la creazione, la costituzione della virilità maschile, e come questo passi attraverso la sfemminilizzazione, diciamo, degli uomini. Per cui ha fatto uno studio appunto approfondito sul militarismo, criticandone le radici e ovviamente anche le conseguenze. Per questo è stata anche, diciamo, molto sgradita al governo turco, perché in Turchia, lo ricordiamo, la Costituzione vieta di fare qualsiasi tipo di affermazione che mette in cattiva luce le forze dell'ordine. Quindi, insomma, in questo contesto lei invece ha studiato, ha lavorato, ha tessuto moltissimi legami, e insomma nella sua prima intervista ci parla e ci ha parlato in particolare anche di questo, della sua analisi del militarismo e della sua militanza femminista. Oggi invece proponiamo una seconda parte dell'intervista che verte più sulle relazioni tra le donne, tra le femministe e le lesbiche, e anche sul suo percorso adesso legato a questo esilio forzato. Inoltre, in coda della trasmissione, dopo avervi proposto questa seconda parte dell'intervista, andremo a leggere delle parti del suo saggio, appunto tradotto da poco in italiano, Lontano da casa ma quanto, e andremo quindi a parlare anche di questa opera di autoproduzione a cura del collettivo di solidarietà con Pinar Selek qui in Italia, che a breve avrà anche un blog. En Italie ou en France, les féministes éclatent. Si dispute e il y a dei rupture. E dunque iniziamo questa seconda parte dell'intervista con Pinar Selek. In Italia, ma anche in Francia, le femministe litigano e ci sono delle rotture, questa è la domanda. Fratture su temi quali l'istituzionalizzazione, la prostituzione, il velo e sicuramente altri. Vorrei chiederti se in Turchia vivete delle fratture di questo tipo e secondo te quale strategia possiamo adottare per affrontare queste fratture restando unite, se c'è insomma questa possibilità. Je n'ai pas une recette, ma belle, je n'ai pas une formule. Peut-être, je ne sais pas. Chez nous aussi, il y a plein de discussions, plein de ruptures. Non ho una ricetta, non ho una formula, ma forse sì, chissà. Da noi in Turchia anche pieno di discussioni, anche di rotture. Ma ci sono molte donne come me, molte femministe, che vogliono malgrado tutto creare dei legami, creare dei punti comuni e continuare la lotta insieme. Allora io credo che la mia ricetta sia che la volontà personale possa cambiare tutto. Io credo in ciò. Quando è nato Amarghi abbiamo detto che avremmo fatto tutta una serie di cose, abbiamo fatto manifestazioni contro la guerra, ma ci siamo anche dette che dovevamo fare una conferenza che potesse unire tutto il movimento femminista. Siamo andate da tutte quante, c'era chi diceva se lei c'è non ci vado io, non andiamo, non vogliamo discutere con loro, ma abbiamo veramente continuato a fare ciò e alla fine adesso, certo, non solo grazie a noi ma anche grazie ad altre donne che vogliono sempre creare legami, connessioni, dei ponti per lavorare insieme. Credo che sia questo ciò che posso dire. Se vogliamo possiamo cambiare. Parce que quand je suis venue là depuis trois années, je vis hors de la Turquie, premièrement j'ai vécu en Allemagne, après je vis en Ma posso aggiungere che quando sono venuta qui da tre anni vivo fuori dalla Turchia, prima ho vissuto in Germania, ora vivo in Francia. Très difficile. Oui, moi j'ai plein de per me è stato molto difficile, davvero molto difficile comprendere questa mancanza di connessione. È stato veramente molto difficile. Sì, è pieno di femministe che critico profondamente, ma siamo comunque insieme, ci conosciamo, ci incontriamo, abbiamo una relazione e anche se non siamo amiche, non beviamo insieme, comunque ci incontriamo sempre. Io so cosa fanno, loro sanno cosa facciamo noi. Anche la nostra rivista Marghi è molto importante, ne vediamo 3.000 copie, sì, dall'inizio ne vendiamo 3.000 copie, non abbiamo potuto aumentare, ma ci sono altre riviste come la nostra e anche grazie a questa rivista siamo in collegamento, perché non è una rivista omogenea, c'è una base, dei punti in comune, ma invitiamo sempre altre persone per discutere. Pour les libératrices aussi, nous avons besoin d'une démocratie. Per me la democrazia non è un termine solamente liberista, liberale. Anche come liberatrici abbiamo bisogno di una democrazia e di ascoltare veramente e dire che sì, questa è la realtà, ci sono movimenti e posizioni differenti. Allora come cambiare, come discutere? Noi facciamo così, ma forse perché viviamo delle oppressioni molto gravi? E allora bisogna unirsi, forse anche questo gioca, non so. On peut pas trouver. Je dis qu'est-ce que ça veut dire ça? Peut-être c'est une exception européenne, je ne sais pas, des Français. Ma da tre anni rifletto su ciò che non ho ancora trovato una risposta. Mi chiedo cosa vuol dire questa cultura, questa frammentazione. Forse è un'eccezione europea, delle francesi o delle tedesche, non so, a causa della cultura, perché tutti si credono molto importanti e pensano di sapere già tutto. Mi sono anche chiesta se ha un rapporto con la colonizzazione, se ha un rapporto con il sentirsi al centro del mondo. Non lo so, non ho un'analisi, ma solo delle osservazioni. Alla fine, je peux vous dire que seulement nous aussi nous avons vécu plein de problèmes. Ma per concludere posso dire che anche noi abbiamo vissuto molti problemi, ma sono sempre le donne, le persone che sono cambiate, che hanno potuto sviluppare e migliorare la situazione. Forse questa formula, tu e tu. Dans la société turca, quelle relation ont les femmes entre elles? Un'altra domanda che può essere legata al discorso precedente è: nella società turca che relazioni hanno le donne? Ça dépend au milieu social, au classe, je sais pas plus. Non esiste una relazione omogenea, non c'è un'unica relazione, dipende dall'ambito sociale, dalla classe e da molti altri fattori. C'è molta concorrenza tra le donne creata da questo sistema patriarcale che ci pone le une contro le altre. Perché abbiamo anche la cultura dell'harem, l'uomo arriva e sceglie la sua donna e le donne sono concorrenti davanti all'uomo e così abbiamo anche questa storia. Ma credo che non soltanto tra le donne, nella nostra società. Da tre anni vivo nell'esilio e posso comparare un po' le culture. Non solo tra le donne, ma da noi c'è una cultura della solidarietà nella società turca più forte, credo. Per esempio, da noi i vecchi non sono mai lasciati nelle case di riposo, sono sempre con delle persone. Non abbandoniamo i vecchi, delle cose così, c'è più solidarietà anche tra le donne. L'histoire des femmes n'est pas très visible. Posso dire che la storia delle donne non è molto visibile, ma che se si osserva bene, malgrado tutte le oppressioni dello Stato, l'oppressione maschile, eccetera, si vede che c'è moltissima solidarietà tra le donne, che ha permesso di continuare a vivere anche alle comunità. Dire che je ne veux pas vous parler d'un paradis parce que vraiment. Non voglio esagerare e dire che si tratta di un paradiso, perché si può veramente trovare di tutto, la concorrenza e molte altre cose, ma anche la solidarietà tra donne esiste in Turchia, perché viviamo in un contesto di una cultura più solidale, non solo fra donne. Il movimento femminista ha molto sviluppato. Cette culture de solidarité. Il movimento femminista ha sviluppato molto questa cultura della solidarietà. Per esempio, posso dirvi che quando il mio processo è iniziato, moi je voyais plein de féministes que je ne suis pas proche aussi. Quando il mio processo è iniziato sono sempre state le femministe ad essere intorno a me. Vedevo molte femministe alle quali non sono neanche molto vicina, ma quando si tratta di una femminista tutte possono essere insieme. E allora riprendiamo con l'intervista. Sur tellement de choses, puisque tu as un puits de connaissances. Potremmo continuare su talmente tante cose perché sei un pozzo di conoscenza e di analisi della società turca e delle altre, dei rapporti di genere, eccetera. Comme ça, en faisant un petit clin d'œil, les compagnes qui ont organisé la soirée de demain. Le compagne che hanno organizzato la serata che c'è stata qui a Roma con Pinar Selek hanno messo sul flyer una frase di Virginia Woolf: come donna non ho paese, come donna non ne voglio, come donna il mio paese è il mondo intero. È una frase che avresti potuto dire tu? Oui. Moi j'avais lu cette phrase dans mes années lycéens, je ne sais pas, j'avais écrit dans mon cahier comme ça. Après j'ai toujours j'ai toujours porté avec moi cette phrase. Sì, l'ho letta questa frase negli anni del liceo e l'avevo scritta sul mio quaderno e da allora l'ho sempre portata con me, ma a quei tempi non sapevo che avrei lasciato il mio paese. Quando ho veramente lasciato il mio paese è stato molto difficile. Poi ho scritto un saggio che è stato pubblicato in francese, ora anche in italiano, perché le compagne del collettivo di solidarietà l'hanno tradotto in italiano, quindi sarà pubblicato anche in Italia. Mon relation avec cette phrase, parce que vraiment c'était très dur l'exil pour moi, parce que j'étais très active, très visible. Mi sono a lungo interrogata su quanto credevo in questa frase, sulla mia relazione con questa frase, perché l'esilio è stato davvero molto duro per me, perché prima ero molto attiva, molto visibile, facevo un sacco di cose. Allora dico, la mia casa non è una casa tra quattro mura, la casa è un luogo dove tu conosci le dinamiche, dove conosci le difficoltà, dove comprendi che se dirai questa cosa chi la comprenderà, che succederà, e tutto ciò ti fa sentire più forte. Dopo l'esilio mi sono sentita un po' male e ho visto nel museo ebreo c'è un grande monumento dell'esilio, è come un labirinto, e quando entri ti viene la nausea perché il suolo non è piano, è un po' inclinato, e anche i muri sono inclinati per non farti sentire la terra sotto i piedi. Non la puoi sentire veramente bene, non puoi avere fiducia nei muri o nelle persone. C'est grâce aux féministes, vraiment, premièrement, grâce aux féministes, aux lesbiennes. Ma alla fine è grazie alle femministe, veramente prima di tutto alle femministe e alle lesbiche, dal primo giorno che sono uscita dalla Turchia non mi hanno mai lasciata sola. E tutte, non solo le tedesche ma anche le francesi e le italiane, tutte hanno preso contatti con me e mi hanno detto: tu sei qui e puoi sentirti come a casa tua. Ora faccio parte di un'organizzazione lesbica e femminista a Strasburgo e finalmente di nuovo mi sento una militante. Sì, adesso posso veramente dire che il mondo intero è la mia casa, perché tu crei delle case, tu crei dei cammini che si incrociano, tu fai parte, quando vivi in un posto inizi a capire, capisci le persone, capisci la vita, e se inizi a manifestarti allora influenzi anche la terra, diventi parte di questa terra. E ora mi dico questo, sì. non abbiamo un unico paese, perché non siamo noi ad aver tracciato le frontiere. Se possiamo vivere, abbiamo il diritto di vivere dove vogliamo. Abbiamo il diritto di vivere con delle persone con cui hai condiviso molto, che ami molto, che ti piacciono. Io una casa che amo molto dove non posso andare. Ora mi dico che ho costruito un sacco di case. E quando tornerò in quella casa dove non posso andare, nella mia casa vietata, non mi dimenticherò delle altre case. Quindi non avrò più solamente una casa. Credo che la solidarietà internazionale cancelli tutte le frontiere e arricchisca il tuo cuore, ingrandisca il tuo cuore, e anche tu superi le tue frontiere. Merci Pina. Allora sì, la solidarietà internazionale cancella tutte le frontiere, e con questo messaggio si conclude la seconda parte della intervista a Pinar Selek. La prima la trovate sul blog mfla.noblogs.org. Pinar Selek è una femminista antimilitarista del collettivo Amargi, è in esilio dal 2009, contro di lei una montatura politico-giudiziaria molto pesante. La prossima udienza di questo infinito processo, che ovviamente si basa su prove assolutamente non consistenti, si svolgerà il 22 novembre prossimo. Impegnata in studi sociologici e politici che riguardano la minoranza curda e la repressione del governo turco di questa minoranza e di quella armena, poi ha lavorato anche ovviamente sull'antimilitarismo, e ne abbiamo parlato nella puntata precedente. Insomma, sicuramente continueremo a intersecare il cammino di Pinar Selek. Intanto anche qui in Italia si è costituito un collettivo di solidarietà con Pinar Selek, e infatti ecco, è grazie anche a loro che abbiamo potuto intervistare Pinar e l'abbiamo conosciuta. Questo comitato ha tradotto un libro, un saggio scritto da Pinar che si riferisce alla sua esperienza come esiliata, la sua esperienza dell'esilio. Noi ne andiamo a leggere delle parti per traghettarci fino alle 21:15. Ricordiamo che ci sarà fra poco un blog di questo collettivo di solidarietà con Pinar Selek in Italia. Ne esistono molti in altri paesi. Lontano da casa, ma quanto? Ho amato la mia casa fin da piccola. Amavo il sentimento che quella casa mi suscitava. Amavo la solitudine che ci provavo e la compagnia delle persone a cui ero legata dall'intimità e da un grande amore. Amavo cucinare, parlare con loro di noi e del mondo in generale. Amavo toccare gli oggetti, impossessarmi dei ricordi per me importanti e osservarli per preparare la mia anima e il mio corpo in vista del giorno successivo. Ma di quella casa vedevo anche i limiti. Sapevo che le sue porte si aprivano diversamente sull'interno e sull'esterno, che i muri che ci tenevano dentro lasciavano altri fuori. Non mi sono mai rinchiusa, ho familiarizzato con altri spazi, altre case, altre vite ed esistenze. Così sono sfuggita ai modelli in cui il patriarcato voleva rientrassi. Poi gli studi e le altre occupazioni mi hanno portato verso piccole dimore provvisorie, lontano, in altre città, in paesi e in luoghi diversi. Poco a poco le frontiere della mia casa si sono allargate. Ho imparato a percorrere con gli occhi chiusi e in luoghi di passaggio un territorio molto più vasto. Ho sperimentato diversi modi di esistere, sempre insieme a delle amiche. Ci ripetevamo questa frase di Virginia Woolf: in quanto donna io non ho paese, in quanto donna non desidero averne nessuno, in quanto donna il mio paese è il mondo intero. Come Virginia non desideravo rivendicare la mia appartenenza a un paese, anche sapendo che un giorno mi sarei dovuta fermare, ritornare verso me stessa e tornare indietro verso la mia terra come una rifugiata. Nel mentre, sicura che la mia casa mi aspettasse, con i miei affetti e i miei ricordi, continuavo a perdermi a Istanbul, di cui avevo imparato a conoscere i luoghi più reconditi, i suoi caffè segreti, i suoi vicoli ciechi e angoli nascosti. Sì, mi ci perdevo, anche in assenza di nebbia, e sul mare mi tuffavo verso la costa scivolando sulle onde. Allo stesso tempo, la mia vita politica si svolgeva in un paese di cui conoscevo la lingua, nelle sue forme e sfumature, e di cui potevo utilizzare i mezzi di comunicazione. In questo particolare contesto storico, sapevo cosa le mie azioni e le mie parole potevano significare e come sarebbero stati recepiti dagli altri. Tuttavia, i miei sogni non mi hanno mai abbandonata. Il conforto e l'agio che la casa mi donava erano così grandi che l'andarci, lo sapevo, rintracciava una nuova frontiera. Le parole di Walter Benjamin, che definiscono la propria casa come lo spazio sicuro per eccellenza, una scatola segreta, mi lasciavano perplessa. Mi interrogavo sulla possibilità della deteriorizzazione. Ciao, è troppo tardi e ci siamo capiti, l'essere fuori dai territori, diciamo. Da ciò vengono anche il mio rifiuto del matrimonio e di quel meccanismo di domesticazione che sono gli obblighi quotidiani. Sono una donna e non volevo vivere dentro una di quelle case dai mobili tutti identici. Non volevo passare la vita davanti al televisore e portare i bambini al parco, vivere per strada in alcuni periodi, fare l'alba in compagnia dei senza tetto, qua e là. Era coerente con la mia visione della vita e con quello che cercavo nella filosofia. Così sperimentavo lo stato di non avere un territorio, come quei nomadi che lasciano le loro impronte sulla strada, attaccano dei piccoli pezzi di stoffa ai rami degli alberi. Io creavo il mio ritmo, imparavo a sentire i venti che mi avrebbero accompagnato nella mia navigazione da uno spazio all'altro, e lo ripeto, mi muovevo a occhi chiusi. Sono caduta spesso. Tra le frontiere che respingevo si era creato un luogo aperto e calmo che lasciava spazio alle scoperte, ai miracoli, agli incontri spontanei e all'azione. Certo non ero sola, ma attraverso questo processo di creazione collettiva decidevo per me, sulla base delle mie scelte, quali frontiere respingere e fino a che punto farlo, in funzione del mio potere, e cioè delle mie forze, delle mie debolezze e dei miei sogni. Poi all'improvviso sono stata strappata via dal mio universo. Lo Stato, gli uomini che governano il mio paese, mi hanno accusata di essere una strega. Dove si trovava il paese delle streghe? Lo ignoravo. Mi sono ritrovata in uno spazio dove non conoscevo né la lingua né le sfumature e dove i temporali mi disorientavano. La mia casa era laggiù, lontana, e mi era interdetta. Forse un giorno avrei scelto io stessa di cambiare direzione e arrivare fin qui. possiamo scegliere di separarci da tutto quello che abbiamo e lo facciamo nel momento giusto, quello voluto. Dopo aver molto riflettuto su quello che si lascia alle spalle, al modo in cui le cose accadono, a cosa bisogna terminare o no, e così, presa la decisione, possiamo scivolare fuori dalle frontiere. C'è una significativa differenza tra questa specie di scivolamento e l'essere strappate via brutalmente. Ai miei fiori è mancata l'acqua e c'erano gli uccelli ai quali davo le briciole di pane tutte le mattine, i vecchi amici a cui portavo del cibo, l'olivo che avevo piantato nel giardino, il romanzo che avevo iniziato a leggere e l'articolo che stavo scrivendo sono rimasti sul tavolino, e le foto di mia madre, i regali degli amici, le lettere che rileggevo spesso, la campagna politica appena lanciata e il discorso che dovevo fare dopo il corteo. I miei amici mi aspettavano all'angolo della strada. La mia casa era con loro. Non avevo finito di costruirla, la mia casa. Continuavo a costruirla. Perché adesso? Succede. La vita non è fatta solo del nostro mondo. Le possibilità che ci si offrono in degli spazi non si trasformano autonomamente in catene che ci ostacolano. Non siamo nate solo nella nostra casa, la nostra città o il nostro paese. Siamo nate nel mondo. Sì, ma se non ci fossi stata costretta, avrei senza dubbio avuto difficoltà a cambiare rotta per andare altrove. Gli ulivi, l'amica a cui portavo da mangiare, i discorsi da fare, sarebbe potuto durare in eterno. E guarda adesso, sono passati anni, ho rimparato a dire le mie parole, a divertirmi a piangere, a fare l'amore, a stabilire legami con quelle vite prima sconosciute. Ho conosciuto persone che ho voglia di baciare e non lasciare mai più. Ho potuto prendere il volo seguendo questo nuovo vento senza cadere. Quindi lo accetto. Amo questi sentieri, questi incontri, ma non avevo nemmeno sognato, questa traversata di esperienze che altrimenti mi sarebbero sembrate strane. Ascoltare, spiegare, sentirsi stimolata da persone di cui ignoravo ogni cosa, di spiegarmi a questo mondo non come un ospite, ma come se fosse casa mia. Quando sono arrivata dalla Turchia non avevo una casa, mi spostavo passando da una casa all'altra con tre valigie sempre pronte, da una casa all'altra, da una città all'altra. Dicevo, il mio mondo è la mia casa. Non era necessariamente vero. Aggrappata alla mia visione della vita e alla ricerca filosofica che intraprendevo, dicevo a me stessa, lascia che l'esistenza deteriorizzata allarghi il tuo mondo, sei libera da questi muri, non devi prenderti cura di una casa, gestirla, non hai una casa il cui peso possa rallentarti come una tartaruga. Non hai pesanti responsabilità, sei a casa ovunque, se impari a vivere così, ad andare ovunque tu desideri con tranquillità, la tua esistenza ci guadagnerà in densità, in profondità. Non dimenticare, l'utopia è fuori dalle mura di casa, sei una donna, la tua casa è il mondo intero. Ma non è così che le cose sono successe. Nelle mie mani le tre valigie sono diventate di giorno in giorno più pesanti. Non c'era un armadio dove appendere le mie cose, nei posti dove mi ritrovavo e dovevo fare e disfare le valigie in continuazione. Questo significava non avere un territorio. La teoria non resisteva alla pratica. I milioni di rifugiati che la guerra e la violenza hanno impoverito. Tutte quelle persone condannate a una vita discontinua dopo aver perso le loro vite di prima e le loro case. Quelli che si sono lasciati dietro dentro un fuoco acceso nel camino, quelli che sono dovuti partire in fretta portandosi dietro tre volte niente perché il tetto gli era crollato sulla testa, quelli che dopo aver varcato l'ostacolo delle frontiere vivono come paria nel paese dove sono arrivati scappando dalla povertà. Gli esiliati della guerra e della miseria non giovano dei vantaggi di non avere un territorio, ma vivono l'esperienza della povertà, dell'insicurezza e della disperazione senza fine. Tra loro, gli ebrei, la cui esperienza dell'esilio è incredibilmente pesante. Nel patio del Museo Ebraico di Berlino c'è un monumento, il Giardino dell'Esilio, delle strade separate le une dalle altre da un muro, delle strade che sboccano le une come nelle altre come corridoi, entrarci dentro dalle vertigini. Questa breve esperienza di vertigine e nausea illustra abbastanza bene la psicologia dell'esilio. Il suolo su quale ci si trova sembra traditore, instabile. Non si sa come comportarsi con le persone, le istituzioni e le strutture che qui esistono. Tutto ha un'aria stranamente inclinata. È una brutta sensazione. Ho fatto anche l'esperienza di questo disorientamento. Si attenua, ma non è scomparsa del tutto. Ma nonostante tutto, in nessun luogo mi sono totalmente sentita in esilio. Anche se i poemi e i canti che parlano dell'esilio, della casa e del tuo paese mi fanno venire le lacrime agli occhi, la definizione di esilio non riesce a riassumere la totalità della mia esperienza. Esiliata, scivolo tra le molteplici emozioni, mondi innominabili. Per le donne l'esilio è un'esperienza particolarmente difficile, ma per me, lo ammetto, è una fortuna l'essere donna, perché mi permette di sentire la solidarietà internazionale delle femministe che condividono con me il non avere un territorio. Con loro trovo la forza di vivere al margine delle istituzioni sociali e politiche del mondo. Se mi si chiede dove mi trovo, rispondo che tengo saldo il timone, che ho imparato a seguire questi venti che in precedenza mi avevano disorientata. Ma che non posso salpare verso il luogo di cui parlo, il paese che mi manca. Tuttavia niente è mai sicuro, i venti potrebbero cambiare, le acque calmarsi. In mare l'importante è issare la vela, sapendo che lo spazio è infinito. E allora questi erano brani tratti dal saggio Lontano da casa, ma quanto, di Pinar Selek, tradotto anche in italiano da poco. Sarà anche in funzione un blog del collettivo di solidarietà con Pinar Selek in Italia, quindi nei prossimi mesi, e noi comunque ne parleremo, sarà possibile forse anche scaricare questa interessante autoproduzione o comunque chiederne una copia. E con questo termina qui questo mini pimer dedicato a Pinar Selek, la seconda parte di un'intervista. La prima, ve lo ricordiamo, la trovate nel nostro blog mfla.noblogs.org. Un saluto dunque a chi ci ascolta, in particolare a tutte le donne esiliate, ed è vero, lo siamo un po' tutte dai luoghi che invece dovrebbero essere anche persino familiari. Siamo esiliate anche dentro casa, e insomma la ricetta è ovviamente la solidarietà tra noi e quella internazionale, che cancella appunto tutte le frontiere. Un saluto, e il martedì prosegue con le sue trasmissioni fino alle 23.